raserò l'aiuola. Quando ritorni da scuola, ok, ti voglio bene, ma molla le tue amiche scene. E amore come anarchia, e dillo alla polizia, vabbè sarà un difetto, ma per favore andiamo a letto. Perché a volte la felicità se fosse un vampiro.